Vacanza di lago. Capitolo quinto. Quel silenzio era insieme rasserenante e inquieto. Martin pensava ai nonni, a quella loro casa così simpatica e ridente sul lago, allo spartito andato perduto sulla corriera, al misterioso professore di violino, l'alfare paterno, che avrebbe dovuto incontrare quella stessa mattina, e alla signora Farden. Cominciò a sgranchirsi. Adesso si sentiva come più libera, ma setacciata da un piccolo senso di colpa verso Pierre, che avrebbe rinunciato ad un mattino proficuo di grandi scoperte musicali incantate, solo per colpa sua. Forse era davvero così inutile, pensava Martin, o forse ancora peggio, era dannosa. La fontana si ascoltava vicina, nello scroscio costante e pensieroso del suo oggetto, ma ancora non si scorgeva. Forse dopo quella salitina a destra o all'interno del tratto ombroso, che adesso aveva giusto di spalle. Martin si sentiva disorientata, ma stranamente felice e stupita di quell'accudimento immeritato di cui si stava saziando dopo così tanto tempo. Il sole batteva forte sulle zone ancora rade e nude di pietra. All'improvviso una figura esile e scura nel volto, che puntava proprio nella sua direzione. Una donna, dall'espressione triste, smagrita, nei tratti del viso, al suo primo apparire come un riflesso cupo di tenebra, quasi dal nulla della luce della strada in eccesso. Martin sentiva i suoi passi rintoccare, leggeri, poi più precisi, come zampe di un grande passero, lievi ma minacciosi, per quell'estraneità labirintica delle porte impolverate di un borgo così piccolo e sconosciuto, che adesso lo intimidiva e tintinnava di segreti avernici, mettendole una grande angoscia nell'animo. La figura scura cominciava a delinearsi meglio nello smalto dorato del sole, e mentre avanzava sembrava andarle incontro, uncinarla di un'attenzione troppo incisiva, insolita. Martin cercò di ricordare la direzione intrapresa da Pierre, ma aveva il sole diritto negli occhi e la testa pesante. Ritornò a sedere dove era prima, abbassando la testa per evitare l'imbarazzo di quell'incontro di occhi, scomodo e sgradito, che sperava a tutti i costi di poter evitare. La donna invece la incrociò nel pieno del viso. Martino ne scorgeva ormai l'ombra sofisticata e deforme, fondersi con la sua, in un unico lago nero. Alzò la testa, presa da un istinto improvviso di luce naturale, e i loro occhi si fissarono. Il bruno dolce di corteccia nel nero corvino di petrolio dell'altra, magra, spettrale, nella bellezza solitaria di una donna quasi senza età. «Mi scusi, mi saprebbe dire quanto dista il bar più vicino da qui?» «Guardi, mi sa che dovrebbe camminare ancora per un buon tratto, forse non meno di 2 chilometri, e con questa calura mi sa che li sentirà tutti. Comunque, se volesse arrivare prima, conosco una stradina dove si accorge. È proprio quella che passa davanti alla mia casa. Non lo so, io vorrei solo regolarmi sui tempi. Non vorrei che Pierre ritornasse. Da lì farebbe sicuramente prima e potrebbe convenire anche al suo amico di percorrere al ritorno. Altrimenti faccia un po' come crede. Io lo dicevo per lei, sa? Non vorrei perdermi, capisce? Non sono mai stata qui. Non conosco nulla e poi, nel caso non ci incontrassimo. Le ripeto, se ha bisogno posso anche accompagnarla io. E poi qui non si è mai perso nessuno, stia tranquilla. È tutto così raccolto. Allora potrei seguirla. Mi sa che mi farà anche bene camminare un po'. La vedo pallida, signorina. È sicura che vada tutto bene? Sto bene, non si preoccupi, sto bene. Comunque adesso mi segua, che in pochissimo tempo saremo al suo bar. Quel tratto lì è molto più ventilato. Vedrà che riprenderà ancora più colore. Proseguirono entrambe con un passo quasi identico, accostandosi sul ciglio al passaggio di qualche vettura sporadica e rumorosa di motori rochi e fumanti di nero. Solo anziani e un muro biancastro, poco distante, a spartire dolori e percosse con i palmi spaccati di un vecchio, che lo tastavano per dargli coraggio nella salita. Si camminava silenziose, la misteriosa donna in nero che era ormai davanti, sfilante nel blu notturno e leggero del suo vestito di vecchia seta, che all'arrivo del vento le scopriva appena le gambe brune e piene, oltre il lato di un ginocchio rotondo, magro e perfetto nelle proporzioni. Quella strada sembrava non finire mai. La sua stanchezza incideva le sue tracce dentro le gambe come un rasoio. Adesso le stava ritornando un po' di nausea e la testa la avvertiva più pesante. Per favore, può dirmi quanto manca ancora? Ci siamo quasi, non si preoccupi. Rassicurata dall'avvicinarsi del piccolo centro, Martina affrettò il passo. Si fermò per allacciarsi una scarpa e la vide rallentare dal basso e poi voltarsi ancora. Sembrava più grande da quella posizione lì. Allora, venga qui. Lo vede quell'incrocio? Quello grande con quella casa gialla? Sì, forse ho capito. Allora, lei prenda quella strada che trova di fronte e svolti solo alla seconda traversa a sinistra. Non può sbagliarsi. A pochi metri da lì troverà il bar. È l'unico della zona. C'è sempre seduto qualcuno lì fuori, almeno a quest'ora. Per qualsiasi problema, comunque io abito qui. In questo villino, vede? Il numero 36. Non può sbagliarsi, sono la sola. Io la ringrazio, è stata davvero molto gentile. Martin si separò dalla donna, che rientrò con indolenza nella sua proprietà, una struttura anomala e scomposta, ombreggiata e gonfia di rampicanti spinosi, roventi, a soffocare i tappeti verticali di edere affamate di ruggine e di muffa, diffusa a larghe macchie sulle sbucciature di intonaco. Martina allora raggiunse l'incrocio di corsa, poi si sciolse i capelli sudati dopo aver tolto il cappellino e si accorse che non c'era un'anima viva, neanche una macchina. Quel bar era deserto. Poche anime anziane, distratte e canute, sedute all'ombra di fronte, dove c'erano i vecchi platani. Un bicchiere appannato di minerale su di un tavolino deserto. Pier non c'era, o forse non c'era già più. Martin cercava le tracce del suo biondo acceso tra le stradine scolorite e sciolte, impolverate di tufo e di sole. Ritornò ancora sui suoi passi, sperando di non perdersi. Le strade adesso biforcavano in un senso strano. Qualche anziano rovesciava secchi neri di acqua insaponata e lurida all'ingresso delle case più basse, sfiorandola di schizzi, quasi a doversi scostare. Una pioggia rossa di gerani e la paura irragionevole di non trovare più la stessa discesa, subito dopo l'incrocio. Martin stava cercando un punto di orientamento, anche piccolo. Ma l'agitazione e la stanchezza della calura la stavano frastornando. Pierre si sarebbe preoccupato tantissimo, o forse era solo lei che stava in pena per la sua preoccupazione. Raggiunse un gomitolo di cascine al lato di un parapetto biancastro, i tornanti chiari del percorso di andata, che erano già visibili. Il fumo da un comignolo la fece rallentare. Forse un riferimento probabile di vita, oltre quel mutismo diffuso di pietre bianche e di terra. Pensò a quella donna magra, scura, alla sua villetta, se almeno avesse ricordato la strada. Un cane a coda bassa, e due galline bianche nel sole che ciondolavano serene dentro la sua paura. Cominciò a cercare con disperazione una fermata della corriera. Ne intravide una sulla strada e cominciò a seguirla. Poi, all'improvviso, ancora il vecchio incrocio, lo stesso che aveva preso poco prima per il bar. Si scagliò nella familiarità riconosciuta dalle traverse e intravide la villetta grigia e marrone, adesso ancora più sfiorita di luce. Il cancelletto aperto. Una gazza che si ripuliva il piumaggio caldo sul ramo più alto di una pianta di camelia. Martin si fece avanti ed entrò con circospezione, anche se avrebbe potuto proseguire da sola. La paura di perdersi ancora e non incontrare più Pierre era ancora troppo grande per continuare a rischiare. Anche la porta d'ingresso era socchiusa al buio sottile di quell'interno particolarmente angusto e oppressivo, dove sembrava fosse sopraggiunta già la sera. Sulla destra un vecchio campanello che non funzionava. Martin bussò con una mano sulla porta, esitando e voltandosi in continuazione indietro per cercare di non essere vista da nessuno. Aveva le mani tutte contratte, inumidite dallo spavento, le gambe scoordinate nei movimenti. Dall'esterno non si percepivano rumori né luci. Scosto con la mano tremante la porta, ed entrò. con un coraggio insolito ed una voce strana e fioca, che le venne fuori quasi senza un controllo cosciente dell'emissione. «Posso? Sono Martino, la ragazza di poco fa, si ricorda?» La stanza era immersa in un tanfo di legna bagnata di urina vecchia. Tutto quello che scorgeva intorno tradiva le tracce nodose di un artigianato tiepido e locale, dalle sedie agli scaffali con i pochi libri appoggiati, una lampada da tavolo rotta, un bicchiere sporco e un brato di cenere, forse da una vecchia candela appena riposta. Martina rimase perplessa, stupita dal lercio che le spaccava il naso e le faceva ritornare la stessa nausea della corriera. Quell'ambiente adesso le risolava dentro lo stomaco peggio delle curve più strette. Non sapeva se andare via o continuare ancora a cercarla lì dentro, per chiedere di accompagnarla a cercare Pierre, in qualsiasi luogo adesso si fosse ritrovato. Mentre proseguiva, ancora esitante, raggiunse un corridoio stretto e ancora più buio, che la separava da un'altra stanza più piccola. Dalle finestre socchiuse le ombre degli alberi dimenticati dal sole, ancora così ardente a quell'ora del mattino. Quella casa sembrava incapsulata in una dimensione fiabesca e inquietante, che Martina sentiva premere dentro di sé da quando aveva raggiunto il lago con le sue prime paure ancora latenti, che nella pagina alpina di quei luoghi avevano avuto modo di farsi più spazio nei suoi pensieri. I suoi passi avanzavano nel silenzio del breve corridoio. Fuori, ad intervalli irregolari, uno stridere schioccante di cornacchie che si faceva più lontano e insieme più acuto. La porta dell'altra stanza era socchiusa, ma dalla feritoia dell'uscio vi trapelava ancora un po' di luce giallastra, bassa, ma appena sufficiente a delinearne una presenza umana in leggero movimento che la occupava. Adesso Martin percepiva l'indizio debole e sfocato di un rumore di un liquido. Lo accostava allo strusciare della seta o al lavaggio di un indumento leggero, sfregato tra le mani, in un bacile. La feritoia del varco di porta ancora socchiuso consentiva la visione imprecisa di uno strano mutevole gioco di ombre che contrastavano la profondità asfittica dell'interno con il calore tiepido di una fiamma, di una candela leggera. Martin, avvicinatasi ancora, posò subito gli occhi sull'uscio. Lo spostò appena, chinandosi, per scorgere chi ci fosse. La vide. Lo stesso vestito leggero di prima, che adesso era tutto aperto sul davanti, lasciava affiorare da quella breve e sfocata distanza due piccoli semi oscuri, che sgorgavano stille di liquido lacrimale, sollecitato dalla pressione alternata e leggera delle sue dita nervose e disorientate sui capezzoli. Il volto della donna era girato tutto all'indietro, solo una gola gonfia e venosa, rigata da un fiotto di lacrime calde che scendevano come il sangue sulla sua pelle dalla tinta quasi ametista, fino a sommergerla. La donna premeva, stavolta con la spinta di tutte e due le mani, e piangeva ad ogni nuovo impulso di pressione, sottoposta ad un'agonia perversa e ancora più intensa, che sgorgava dalla voce flebile dei suoi mugolii così poco umani. I suoi lamenti e le scarpe slacciate, immerse nel piscio caldo che le sgorgava a fiumi dai lati delle cosce scoperte. Martin rimase come pietrificata. Non riusciva nemmeno più a muoversi per il terrore. Mentre la donna continuava a immergersi nelle pieghe liquide del suo misterioso martirio, la ragazza riuscì a svincolarsi dalla sua stessa immobilità e a retrocedere, quando i loro occhi all'improvviso si incontrarono. Martin li sbarrò al massimo, fissi e feriti dentro i suoi. L'altra, sorpresa e spaventata, si ricompose in fretta, si chiuse la veste chiazzata dai residui densi del liquido, richiudendo subito la porta con forza. Poi continuò a rumoreggiare, mugolando ancora, come una bestia dannata e sofferente. Martin si girò di scatto e cominciò a scappare. Si lanciò di corsa nel vialetto, lasciando sbattere il cancelletto arrugginito alle sue spalle. Quel rumore secco riecheggiò nell'aria ferma di quel mattino come una sferzata tagliente, uno sparo cupo nel vuoto della sua vita. Adesso Martin riconosceva a perfezione la strada, ritornava subito tutto più familiare. La sua attenzione si era fatta più acuta, più sensibile. Non aveva più il minimo dubbio su dove svoltare. Riconosceva ogni angolo del percorso dell'andata. Così si ritrovò in brevissimo tempo nella stessa strada dove la corriera li aveva lasciati. La fontanina scrosciava allo stesso modo, Il sole si era appena spostato. Riconobbe il grosso albero e la sua ombra dolce e rassicurante, adesso ancora più ampia e protettiva, che pareva richiamarlo. Pierre ancora non c'era. Intorno solo quel deserto assolato e straziante. Martin ghiacciava dentro i polsi e sentiva le tempie percuotere come tamburi militari. Raggiunse la panchina in pietra e si stese, con la faccia verso il bosco asciutto di conifere e le gambe mezze scoperte, accartocciate al torace ansimante. Nello scappare si era graffiato al polpaccio, ma erano graffi leggeri, appena visibili. Cercò di addormentarsi, con molta fatica. Una corriera azzurra svettante di gomiti da finestrini aperti fermò sul lato sinistro della strada. Avrebbe proseguito in direzione dei laghi. Vi discese Pierre, soddisfatto con la sua partitura intatta sotto un'ascella. Strappò il biglietto e cominciò a guardarsi intorno, con piccoli e rapidi scatti del capo, fino a quando non la scorse, ancora addormentata, sulla stessa panchina. Le si accostò piano, facendosi più vicino, ma senza svegliarla. Sembrava tranquillo e rasserenato dal recupero della sua musica. La corriera proseguì e lasciò i due ragazzi nel silenzio rurale della contrada, ancora spoglia dei tratti appena più urbani dei primi paesi, che si sarebbero intravisti solo nei prossimi chilometri. Rimase ancora un po' fermo, a sfogliarsi lo spartito, prima di scattare in piedi scalciando un sasso di tufo che sgretolò lungo il bordo del selciato, in mille pezzi. Martin, a quello scroscio morbido di pietra, si smosse dal suo torpore, si girò appena su di un lato e stropicciandosi gli occhi si rialzò appena sui gomiti, trovandoselo all'improvviso di spalle, indisturbato e indifferente a quella loro breve separazione. «Pierre, finalmente!» «Eccomi qui, Martin. Come vedi, le nostre strade si sono ritrovate. È puro destino il nostro, non credi?» «Ma dove eri finito? Ti ho cercato ovunque, era tutto un unico deserto qui. Ho raggiunto la corriera, alla fermata successiva. Il conducente ha effettuato un'altra sosta. L'ho presa a volo. Ho avuto tanta paura, Pierre. Adesso sono contenta per te. Ti vedo strana, Martin. Sicuro che vada tutto bene? Mi sembra di aver sognato o di aver visto davvero delle cose quassù, ma preferisco non pensarci. Adesso vorrei ritornare al lago, Pierre. Dovremmo aspettare la prossima corriera, Martin. Ti prego, vorrei solo andare via di qui. Vorrei tornare.